Se senti suonare una volta al mese, quando arriva la meglio stagione si può fare la processione. Le campane di San Lorenzo quando le siete ti fanno contento, quando sono una bella festa si si formano per la questa. Din don din da, le campane nazionali, din don din da, è la festa sotto Santa Lucia, essa la gente in mezzo alla via, coppa e sopra peinta la fera, canta la pizza e cammina la pera. Ci so la sanità, sulla ustra siete suonare, quando è l'ora della processione ti metti in fila in dalla via nova. Din don din da, le campane nazionali, quando è festa a Calavritto, caccia le soldi e stai pure stritto, lo comitato si è impegnato e la ghiazza si è chicuta. Alla Maronna era lo iumo, alla montagna non vai nessuno, alla Maronna la neve, viene di fritto ti viene la freva. Dindo, dindo, campana da suona, dindo, dindo, e la festa sotto fa. Raccamana da Santo Rocco, rossendi forte ogni rintocco, in dalla neglia era gli uni, si vera si gioca si fanno i milioni. E raccampana da Culliano, chi ne sono lo sacrastano, raccamana da Culliano, gli anello suonano proprio sul più bello. Dindo, dindo, le campane da suonare, dindo, dindo, e la festa sotto fa. Battaglia batteria e la gente non sondia. Raccomando la San Gilardo, sono sempre senza ritardo. Hanno messo il registratore, sono da solo a tutto l'ora. La dolce comunale che è sfasato ogni segnale, ma la notte è la compagnia, faci pure la pocotria. Ma Pasqua e Natale, che requisiti è speciale, la campana porta allegria, stanno buone mezza via. Ma raccampanare come Alessandro, vanno buone per ogni santo, ma raccampanare come Alessandro, si sentono forte e a distanza. Essa campana.